1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza amici miei, sono le 7:19 minuti e siamo pronti a leggere i giornali. È da un po' che non lo dico, ma debosciatelli miei, come state? I miei amici debosciati che magari si uniscono a quest'ora mentre noi siamo qui in diretta dalle 6:30 a 24 mattino, ricordatelo. Dai, andiamo a leggere i giornali. Alino, il primo debosciato sei tu! E questo si sa, mercoledì 25 maggio, i titoli, l'apertura del Sole 24 ore sulle borse, rally con le banche, la BCE studia un piano NPL per il nodo sofferenze, questo è il titolo di prima pagina. Mentre la maggior parte dei quotidiani sceglie le pensioni come tema principale, pensioni minime si cambia, questo è il titolo del Corriere della Sera, Renzi annuncia bonus o assegni più alti. Per Repubblica, pensioni così la riforma. Il Messaggero, così cambiano le pensioni. Libero invece continua in una campagna molto aggressiva nei confronti dell'INPS. Divorati i soldi dei pensionati. Cassa disintegrazione. Che guaio. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre per il giornale, gli affari dell'INPS, il giornale si è unito in questa campagna. Palazzinari con le nostre pensioni. L'istituto di previdenza costruisce affitta case ma ha già perso 245 milioni. Mentre per il Fatto Quotidiano ancora referendum. Rai, il sì marcia reti unificate, per il no un minuto in tutto. La Stampa invece riforma il duello tra Letta e Renzi. L'Unità apre su Roma, sblocca Roma, è il programma dei primi 100 giorni del candidato Giachetti, mentre Avvenire mette il titolo sgomberati, i 9.000 profughi andranno in centri nel nord della Grecia, sgomberati da idomeni. Queste alcune delle aperture dei quotidiani, voglio partire da alcune notizie di cronaca nera perché si impongono, ci sono tante notizie che riguardano appunto la cronaca nera, a cominciare dalla condanna in primo grado a 26 anni di carcere per Daniele De Santis, il tifoso della Roma che ha ucciso Ciro Esposito, questo secondo la accusa e la sentenza di primo grado. Omicidio volontario, 26 anni a De Santis, l'ultra che uccise Ciro. Come scrive il Corriere della Sera, Fulvio Fiano, non è l'ergastolo chiesto dai PM, ma la sentenza per la morte di Ciro Esposito rappresenta un precedente importante nel libro nero della storia del calcio. Daniele De Santis, colpevole di omicidio volontario e condannato in primo grado a 26 anni di carcere. Mentre qualcuno dal pubblico dell'aula bunker di Rebibbia urla «devi marcire in carcere», Antonella Leardi, la mamma di Ciro, non perde il contegno mantenuto in tutto il processo. E in effetti su Repubblica viene intervistata la mamma di Ciro Esposito. Dice: nessun verdetto mi darà mio figlio, ma per quell'uomo non provo odio. Dice: si può essere soddisfatti quando si è perso un figlio? No. Una madre a cui uccidono un figlio non può mai essere soddisfatta, dichiara a Repubblica, intervistata da Federica Angeli. E poi però parla di Daniele De Santis, dice: io l'ho perdonato il 4 maggio, il giorno dopo gli scontri. Non ho mai provato odio per lui, ho sempre però preteso giustizia ed è questo atteggiamento, secondo me, quello più giusto per onorare mio figlio. D'altronde, all'odio non si risponde con altro odio. Ciro è stato ucciso per odio in un contesto di estremo astio legato a una diversa veduta tra tifoserie. Se io provassi odio, quel sentimento che mi ha portato via mio figlio, quel sentimento stupido che non porta a nulla da nessuna parte, sarei uguale a chi ha premuto quel grilletto. Io non sono così e questo dolore immenso che provo non ha cambiato il mio modo di essere. Beh, davvero parole di una dignità profonda, incredibile, della mamma di Ciro Esposito, che si è vista appunto un figlio ucciso. A proposito di cronaca nera, invece, parla per la prima volta, lo fa con Il Giorno, l'infermiera Fausta Bonino, colei che è finita nell'inchiesta per le morti strane all'ospedale di Piombino, accusata di essere un'infermiera killer e poi un impianto d'accusa che si è via via smontato, è stato smontato, è vero che rimane indagata, ma l'impianto d'accusa è stato smontato e davvero è andata prima in carcere, poi è stata rilasciata, ora è a casa, è libera, indagata certo, ma ora parla per la prima volta intervistata da Paola Zerboni e dice al Giorno: mi hanno trattata da serial killer, vogliono incastrarmi. Ho capito che a metà luglio del 2015 ero sospettata dopo l'interrogatorio sulla morte della paziente Marcella Ferri. Ho capito che ce l'avevano con me. Anche prima di iniziare il colloquio, il colonnello del NAS dei Carabinieri mi disse: se confessa possiamo aiutarla. Ed è stato tutto un farmi l'elenco di morti, anche di quelli degli anni prima, facendomi sentire in colpa perché non ricordavo precisamente chi fossero. Ma come si fa? È un lavoro di pazienti che vanno e vengono. Quando è finito l'interrogatorio ho chiesto alle colleghe se anche a loro avessero fatto le stesse domande e mi hanno detto di no. Allora mi sono detta: sospettano davvero di me, vogliono incastrarmi. Io sono stata accusata dalla struttura sanitaria, ma bisogna esserci stati all'ospedale di Piombino. Lo sa che prima del mio trasferimento i pazienti arrivavano dalle sale operatorie in ipotermia perché erano sprovvisti dei lettini riscaldati e quando arrivavano in rianimazione dovevamo farli riprendere noi. Ora, dopo questa vicenda, sono arrivati i lettini riscaldati. E dopo la ispezione ministeriale ci sono dei tutor che seguono anestesisti e infermieri. Ma insomma, dice lei, io non c'entro nulla, sono descritta come una pazza, mi hanno definito con un profilo psicologico da serial killer, è tutto tremendo, ma mi vogliono incastrare. Il fatto che è una vicenda davvero misteriosa, ma lei, indicata anche da tutti i giornali come la presunta infermiera killer, poi invece in qualche modo insomma la sua posizione si è attenuata moltissimo. Certo, l'immagine è molto infangata già, ma si difende oggi per la prima volta. Mentre rimango sul Giorno, per la verità ne parla anche il Corriere della Sera, ma il Giorno dedica una pagina a questa vicenda che ci porta a Forlì e riguarda il sindaco di Forlì e i suoi due figli minorenni. È una vicenda sulla quale c'è riserbo assoluto, racconta il Giorno, sotto il titolo "Beffa per il sindaco PD anti graffiti, i figli pizzicati a imbrattare i muri". Hanno 13 e 16 anni, sono stati multati, racconta Marco Bilancioni. La polizia municipale li ha beccati in un parco mentre scrivevano su un muro a due passi dal centro storico di Forlì. Un episodio come ne capitano tanti, in città e non solo. Se non fosse che i due ragazzi sono i figli del sindaco e che, come prevede la legge in questi casi, sono stati multati. Il maggiore è stato segnalato anche alla procura, l'altro no, sotto i 14 anni non c'è responsabilità penale. Ieri il sindaco Davide Drei del PD non ha voluto commentare l'accaduto. Alcune fonti vicino a lui sono rimaste stupite. Il sindaco non aveva fatto parola con nessuno di questa vicenda. Strettissimo riserbo anche tra gli agenti di polizia municipale, che sono dipendenti del comune che Drei guida dal 2014. E dire che, per ironia della sorte, l'impegno contro i graffitari doveva essere uno dei punti chiave del mandato del sindaco. Circa un anno fa era stato annunciato un programma di ripulitura del centro storico. E dunque, insomma, dopo avere detto ripuliamo contro il degrado, contro le scritte, i figli pizzicati, entrambi minorenni. Sono cose che capitano, questo lo anticipo io. Ma eccoci qua all'articolo che mi fa pensare della giornata. L'articolo da Mani sul Volante. Prima un po' l'abbiamo anticipato alle 6:30 commentandolo sul Giornale. Giampaolo Iacobini, una sentenza che nel titolo suona così: rubare il gatto non è reato, è un furto di poco conto. Succede per l'assoluzione al Tribunale di Roma, prima sezione penale, di un giudice che ha applicato la tenuità del fatto fatto, anzi la particolare tenuità del fatto nell'assolvere una condomina che da 7 anni tiene sequestrata, scusate, mi fa ridere, sequestrato il micio di una altra condomina. In pratica ruba il gatto ai vicini, ma il giudice l'assolve, fatto lieve, come rubare una scatoletta di tonno al supermercato, ricordate la vicenda del clochard che è stato assolto. Animali come cose, accusa il giornale, ha un gatto come una scatoletta di tonno. In realtà ogni processo segue una strada diversa, ma insomma il micio dal pelo candido era scomparso nell'ottobre 2009 dal cortile della palazzina. Una delle condomine, infastidita dalla presenza del felino, se n'era lamentata coi proprietari e l'indomani riferì loro d'averlo preso per portarlo da un veterinario, sebbene la bestiola non lamentasse alcun male. Di fronte alle richieste di restituzione, la gattara aveva fatto orecchie da mercante e da 7 anni lo tiene sotto sequestro. Ragazzi, scusate, ma insomma, vabbè, rubare il gatto non è reato. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Lettura dei giornali fai da te? No, Alessandro Milan? Ai ai ai ai ai ai. Va bene, questa evoca una vecchia pubblicità, eh? Allora mandateci le vostre sigle al 349-238-6666. Ora tuffiamoci nella noiosissima politica di questi giorni, una noia mortale, nella quale politica, nel dibattito politico, si insultano così ogni giorno, se ne mandano a dire e non dicono nulla ai cittadini. Che cosa farebbero per migliorare le cose delle città, per esempio, visto che si vota nelle città da poco, almeno in questi dibattiti che sono a livello locale li dovete andare a scovare, ma sui giornali non finiscono, non vengono riportati. Allora, nel dibattito politico quello che finisce sui giornali è questo: ieri Renzi era a Repubblica a fare un'intervista a Repubblica TV e il titolo di Repubblica, pagina 7, che sintetizza l'intervista è questo: i candidati del Movimento 5 Stelle sono co-co-pro della Casaleggio Associati. Il suo bersaglio principale, scrivono Goffredo De Marchis e Laura Pertice, è proprio il 5 Stelle. Virginia Raggi a Roma ha firmato un contratto come una co-co-pro della Casaleggio Associati, azienda privata milanese. Io invece ho scoperto la squadra del candidato PD Giachetti leggendo un post su Facebook. Questa è la differenza tra noi e loro, così attacca Renzi. Poi parla di Verdini. Non svelo un segreto se racconto che il PD non ha vinto le ultime elezioni. Io sono presidente del Consiglio per questo. Non sono stato la prima scelta di Napolitano quando ci siamo accorti di non aver vinto. Enrico Letta è stato un anno al governo e le riforme non si sono fatte. C'è un modo infallibile per non fare accordi con gli altri, ovvero vincere le elezioni. Insomma, poi quindi difende l'accordo con Verdini, attacca il Movimento 5 Stelle e questo Renzi. Ovviamente il Movimento 5 Stelle risponde dicendo: la nostra è una squadra molto competente, Virginia Raggi presenta i membri dello staff, parlamentari, europarlamentari, consiglieri della Regione Lazio, Roberta Lombardi, Paola Taverna, Fabio Massimo Castaldo. Insomma, l'attacco del premier Raggi e i Dem sullo staff della candidata 5 Stelle, dice, sono badanti. Di Maio replica, polemiche disperate. Tra l'altro, sulla questione Bersani, o meglio Letta Renzi, oggi Marcello Sorgi sulla Stampa racconta che effettivamente è già partito di fatto il lungo duello, forse, che si vedrà alla prossima segreteria del Partito Democratico, il congresso anticipato tra Enrico e Matteo, una sfida democristiana senza più la DC. Marcello Sorgi, prima pagina della Stampa, poi continua a pagina 3. Per Letta è l'inizio della corsa e la fine dell'esilio francese, in cui si era ritirato dopo la brusca elezione da Palazzo Chigi, il famoso tweet Enrico stai sereno da parte di Renzi, seguito poi dall'apertura della crisi. Ma insomma, in questo profilo raccontato a pagina 3 della Stampa, Marcello Sorgi racconta che ieri in pratica si è avuto il via alla lunga corsa per la candidatura per il prossimo congresso, quindi vedremo sempre loro, Renzi, attuale segretario del PD, e Enrico Letta. Staremo a vedere. Certo, nella giornata della politica a colpi di insulti, ieri si è scritto anche Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica, a cui ha risposto Matteo Salvini, perché Giorgio Napolitano, che era proprio alla scuola dove insegna, la scuola dove insegna politica Enrico Letta, ha detto la Lega è un partito xenofobo. La Lega è xenofoba. E la risposta di Salvini è Napolitano è da ricovero e lo insulta. Insomma, diciamo che il livello è questo qui. Tra l'altro è un giorno in cui almeno per un 24 ore forse non si è parlato del referendum, le polemiche sui partigiani, non i partigiani, partigiani veri, partigiani finti. Cosa succederà al referendum? Tanto che sul referendum il commento migliore è quello di Iena, come sempre urticante, a pagina 3 della Stampa: referendum, professori per il sì e professori per il no. Ma come voteranno i bidelli? Ecco, questo è Iena sulla Stampa, pagina 3. Rimango sulla Stampa, pagina 3, perché c'è un articolo, invece questo, che mi ha molto colpito. Non perché riguardi la categoria dei giornalisti, io non tutto faccio nella vita tranne che difendere le persone per categorie, ma mi ha colpito questo: diffamazioni, pene più alte se sono colpiti i giudici e i politici. Ecco, questa cosa mi ha un po' anche infastidito, devo dire. Francesco Grignetti: guai al giornalista che diffami un cittadino eletto di livello nazionale o locale o un magistrato. Per il giornalista, in questo specifico caso, ci sarà una super pena aumentata da un terzo alla metà rispetto alla sanzione se avesse diffamato un semplice cittadino. Cioè, avete capito? Se uno diffama un semplice cittadino, se un giornalista diffama un semplice cittadino, ha una pena. Se diffama un cittadino eletto, quindi un politico o un magistrato, la pena aumenta. Ah però, la fattoria degli animali, c'è qualcuno più uguale degli altri. Insomma, nel licenziare una meritoria legge a tutela degli amministratori locali contro gli atti ritorsivi, spiega Grignetti, la Commissione ha allargato la platea dei tutelati all'ampio corpo politico e amministrativo e al corpo giudiziario. Se poi si va a guardare quali siano questi atti ritorsivi da rintuzzare, si scopre che sono 5 specifici delitti: le lesioni personali, la minaccia, il danneggiamento, la violenza privata, e fin qui tutto a posto, e poi la diffamazione. Eccola qua, in una prima versione, oltre alla diffamazione, c'era anche l'ingiuria, però nel frattempo l'ingiuria è stata depenalizzata dal governo come reato e così anche la Commissione ha dovuto rinunciare a questa specifica tutela per gli eletti. Insomma, attenzione, diffamare un semplice cittadino per un giornalista comporta una pena. Diffamare un politico o un magistrato comporta una pena aggravata. Molto molto interessante questa cosa. Sul referendum, per la verità, c'è anche il Fatto Quotidiano che insiste dicendo, soprattutto e ponendo l'accento sul fatto che c'è una campagna elettorale, soprattutto sulle TV, molto sbilanciata. Il sì marcia reti unificate, per il no un minuto in tutto. Questo è il j'accuse del Fatto Quotidiano. Carlo Tecce intervista anche Alessandro Pace, costituzionalista, che dice: per la RAI siamo inesistenti, al no vengono concessi solo pochi secondi. Questo alla RAI, questo racconta il Fatto Quotidiano. Ma io vorrei, sulla questione della politica, sulla questione della politica, per dire quanto sia noiosa nel dibattito, c'è ancora una pagina, pensate, una pagina intera del Corriere della Sera dedicata alla vicenda di 3 giorni fa dei vigili urbani che fanno, no, non è che fanno irruzione, no, della vicenda di una riunione del Movimento 5 Stelle con la candidata Virginia Raggi, con la voce che si sparge: oh, sono arrivati i vigili urbani, e tutti che si alzano perché temono evidentemente qualcosa, la macchina in divieto di sosta, non lo so. E c'è anche l'intervista a Stefano Vignaroli, deputato del Movimento 5 Stelle, che era presente. Che è successo sabato scorso, pensate, è una notizia di sabato scorso, oggi il Corriere dedica una pagina. Ebbene, dice, ma no, ma è arrivato uno dicendo ci sono i vigili ed è stato un riflesso condizionato. È come se uno gridasse c'è una bomba. Vabbè, che non è proprio la stessa cosa. Comunque, ci stanno i vigili. È come dire il riflesso condizionato. La verità, poi, dice Vignaroli, alla fine zero multe, c'era solo una macchina che sporgeva col muso, ma era di un disabile. Insomma, il dibattito sulla onestà o i più onesti degli altri. Io però vorrei fare un quiz al mio amico Mauro Meazza. Buongiorno caro Mauro, come stai? Buongiorno, buongiorno. Vorrei sapere quanti anni hai esattamente. Dai, fai questo outing su. Sì, no, 53, perché 53, fantastico. Sì. Sei ancora sei ancora nella fascia, secondo la nuova classificazione, adulti. Tra un anno, anzi tra due, entri tra i tardo adulti. Vabbè, meglio tardo adulto, insomma, che qualcos'altro. Tardo adulti. Senti, guarda che se vai avanti così potremmo provare a verificare com'è la diffamazione del conduttore radiofonico. Tardo adulti. Non so se c'è un aggravante. Beh, non lo so. Tardo adulti è bello, però. C'è un aggravante per la diffamazione del conduttore radiofonico. Sei tardo. Tra due anni. Caro debosciato, visto che tu dai sempre dei debosciati agli ascoltatori. Sì. Hai preso già l'instant book sui bonus per la casa? Come no? L'ho trovato sulla scrivania. Meno male, perché sennò già sapevo che saresti venuto da me a cercarlo, cercando di carpirmelo con millantando così, promettendo caffè che poi non offri mai. Comunque lì ci sono 80 pagine, dico 80. Sì. 80 pagine sui vari sconti per non solo la ristrutturazione, il 50%, il 65% per il risparmio energetico, ma anche i mobili, ad esempio. Mm-hmm. Sai che sull'acquisto dei mobili anche ci sono le agevolazioni. Quindi leggi avidamente, direi, questa volta, queste 80 pagine, in modo da sfruttare gli sconti, che sai che è stagione di dichiarazioni. Oh, poi ti vorrei consigliare, sul Sole 24 Ore di oggi, ci sono diverse cose interessanti, ma ci soffermiamo sempre poco sulle pagine di commenti inchieste. Sai che sono solo 24 ore ogni giorno le pagine di commenti inchieste. Quest'oggi una interessante presentazione dei dati sull'università, dove purtroppo ci rivela che come laureati siamo appena sopra la Turchia e tutti gli altri paesi europei sono davanti nella fascia 23-24 anni, insomma pochi laureati per l'Italia. E poi invece a sinistra il profondo rosso per il calcio nella pagina precedente, perché crescono i debiti, sì, si può anche dire così, se lo dici da solo va bene, non ho nulla da eccepire, perché crescono i debiti delle società di calcio. Certo, siamo ancora, scrive Gianni Dragoni, sui 536 milioni, mentre per la Grecia siamo a 320 miliardi, come sai, di debito, lo scrive il Sole 24 Ore di oggi nelle primissime pagine. Oh, ti vorrei segnalare che sulle pensioni hai già segnalato, molti giornali se ne occupano, anche il Sole 24 Ore di oggi, le prospettive di intervento, ma interessanti anche quelle di taglio del cuneo, sì, che non è una riduzione del comune piemontese, ma no. Invece la riduzione del peso delle imposte e dei contributi in busta paga, quindi per un effetto che dovrebbe essere positivo per l'occupazione e come di sollievo anche per i portafogli. Leggi le anticipazioni oggi sulle primissime pagine del Sole 24 Ore. Mm-hmm. Poi ti voglio segnalare, non è proprio un radiofisco ma quasi, dall'8 giugno il Sistri cambierà regole. Ah. Non è un messaggio in codice, si tratta del sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti. Mm-hmm. È una vicenda tormentata, spieghiamo tutto in norme e tributi. Beh. Che altro ti posso dire? Solo una parola. Traffico! Alessandro Milan, il sciupapagine dell'informazione. Beh, effettivamente il sciupapagine dopo lo sciupafemmine non è male. Allora, a proposito di INPS e pensione, appunto ci sono tanti dettagli di quello che è il proposito del governo, come ha annunciato Mauro Meazza, li trovate sul Sole 24 Ore. Devo dire che sull'INPS Libero sta conducendo una battaglia davvero quotidiana nei confronti dell'istituto previdenziale. Oggi Giacomo Abbadori a pagina 4 racconta: l'INPS rinuncia a 100 milioni per stare in centro a Firenze. La storia di un palazzo, l'ente non vuole vendere la sede a due passi da Piazza della Signoria, che costa 2 milioni l'anno in manutenzione, e inoltre vi organizza concerti d'archi gratuiti. È da giorni, insomma, che Libero attacca, c'è anche oggi l'editoriale del direttore Vittorio Feltri a dire: ci accusano di fare questa campagna perché l'INPS è anche nella sede, diciamo, il giornale Il Tempo, rilevato da poco dagli editori di Libero, sta nella sede dell'INPS, in un palazzo dell'INPS, e ieri l'ufficio stampa INPS scriveva: e da 3 anni Il Tempo non ci paga l'affitto. Si dà il caso, scrive oggi Feltri, che l'editore di Libero, avendo acquistato da una settimana lo storico foglio della capitale, Il Tempo, non c'entri un bel niente coi debiti del venditore, essendo in corso la procedura fallimentare. E dunque Feltri attacca anche gli altri giornali come Il Fatto Quotidiano e Il Giornale, che hanno accusato Libero: fate questa campagna perché insomma, pro domo vostra. Vabbè, insomma, questo succede anche sui giornali, mentre tutti i giornali oggi raccontano, per la verità con maggior rilievo, sul Manifesto, su Repubblica, sul Corriere della Sera, la rivolta in Francia contro il Jobs Act. Racconta il Corriere della Sera: raffinerie occupate. Stefano Montefiori: i distributori di benzina sono a secco, ma il Premier non vuole e non può cedere dopo la marcia indietro sulla revoca della nazionalità. E dopo aver già ammorbidito la riforma, il ritiro completo della legge sul mercato del lavoro preteso dai manifestanti sarebbe l'ammissione di un fallimento totale. Così, ieri mattina alle 4:15 del mattino, gli agenti antisommossa sono intervenuti per togliere il blocco a una raffineria poco lontana da Marsiglia, scontrandosi con oltre 200 militanti del sindacato. Insomma, continuano le proteste sulla riforma del lavoro in Francia. Il ministro che difende il Jobs Act, Valo Belkacem, dice: in piazza ormai sono rimasti solo i violenti. Ed è un'intervista che trovate su Repubblica a pagina 19. Questo per quel che riguarda la Francia. Se vogliamo invece andare negli Stati Uniti, la mossa di Trump è stata quella, e lo faccio vedere anche sul Messaggero in diretta sul mio profilo pubblico di Facebook. La mossa di Donald Trump è stata quella di rilanciare un video di due donne che denunciano: siamo state molestate da Bill Clinton. Quindi, insomma, Donald Trump, che ha accusato appunto di utilizzare nei confronti delle donne un linguaggio e dei toni, dei modi maschilisti, per non dire di peggio, accusa con le stesse armi, accusa il marito della principale rivale, l'ex presidente Bill Clinton. Mossa di Trump, video accuse a Clinton di molestie sessuali. Questo sul Messaggero. Anche il Giornale dedica una pagina a questo. Il Giorno dedica ben due pagine a questo. E intervista Lori del Santo, giuro, a pagina 3. Piero degli Antoni, Lori del Santo, che ha avuto un flirt con Donald Trump e dice: ma che lui è un galantuomo, fa sempre il baciamano alle donne quando le incontra, mica come quell'armatore della Coppa America che una volta venne a cena con me, appena arrivammo a casa, vrum, si è sceso il pantalone, così testuale, si è sceso il pantalone. E io, Lori del Santo, gli ho detto: what? E niente, Donald Trump invece è un galantuomo. Va bene, parola di Lori del Santo. Il Fatto Quotidiano invece accusa così: Renzi ha deciso anche di cambiare il CT della Nazionale. Il Fatto Quotidiano, pagina 5, era deciso per Ventura, poi Tavecchio è andato a Palazzo Chigi, secondo retroscena del Fatto Quotidiano è stato Renzi a dirgli ci vuole uno più giovane, magari Montella, che ha fatto bene alla Fiorentina anche. E quindi forse ci sarà Montella al posto di Ventura. Per questo? Dai, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile sui giornali. Oggi la voglio dedicare all'Apo. L'Apo, ascoltatore indefesso, ho detto indefesso, che ci ascolta e che oggi compie 15 anni. Tanti auguri all'Apo. A te dedicata la carta costa di oggi, che è il mio amico Alessandro Dell'Orto su Libero. Un'intera pagina per dire che quando chiedete il selfie ai VIP, il selfie, state dicendo addio all'autografo. Autografo, addio! Nessuno chiede più l'autografo ai VIP.